da forza, 100 anni o 30 come me. Prese una moneta dalla sua tasca, la gettò nel pozzo della piazza, per sfatare quel presagio che un giorno lo turbò e tornò la luce. L'erba tra i grilli s'addormentò. Trend.